Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 12 marzo 2015. Cibi della salute. Meno miracoli, più diffusione. Le ricette alimentari per la salute fatte di cibi e integratori dai nomi esotici e basate su molecole miracolose sono per fortuna un ricordo. Lo dice uno studio dell'INRAN, l'Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti. Secondo quanto rilevato in una indagine elaborata in queste settimane, gli italiani stanno mettendo da parte la passione con cui negli anni scorsi hanno guardato agli alimenti esotici, al centro nel 2012 di una discussa classifica dell'Huffington Post. Dall'aglio nero alle alghe blu, senza dimenticare i semi di canapa e il tè giapponese, negli scorsi anni abbiamo inseguito mode miracolose. Oggi, per fortuna, stiamo puntando su varietà, dieta equilibrata e alimenti locali. Fin qui la notizia del 12 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. L'auspicio è infatti che si indebolisca la moda dei cibi e degli integratori toccasana, capaci, secondo una pericolosa vulgata, di garantire la salute. Il segreto di un'alimentazione sana è invece l'equilibrio, dice la ricercatrice dell'INRAN, Laura Rossi. In generale, di vero, sia sui cibi miracolosi che sugli integratori miracolosi non c'è niente, diciamo le cose come stanno. Lo dico con particolare fermezza proprio sugli integratori. È molto diffuso l'uso degli integratori per qualsiasi cosa, dal dimagrimento al potenziamento delle facoltà mentali a qualsiasi cosa. E se ci fosse realmente un integratore in grado di fare questo, noi come comunità scientifica saremmo i primi a sostenerlo. Purtroppo così non è. Sugli alimenti in senso stretto bisogna distinguere. La frutta è tutta uguale. È chiaro che il tipo di polifenoli che sta dentro la frutta, gli antiossidanti per capirci, sono diversi a seconda del colore della frutta. Quindi la papaya che è arancione ci avrà dei polifenoli diversi dal mirtillo che è viola. Ma questo, diciamo, non è che l'esotica o la papaya o la mangostano sono diversi, ma non sono più o meno favorenti la salute. Quello che è dimostrato è che mangiare molta frutta e anche molta verdura ci fa bene alla salute. Non è dimostrato che mangiare quel particolare tipo di antiossidante presente nel mirtillo ci faccia bene. Quello che mi piacerebbe che ci si lasci alle spalle da qui a non so quanto tempo è di vedere la nutrizione come la molecola. La nutrizione non è la molecola, noi non mangiamo molecole, mangiamo alimenti. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.